i soldi su una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buona giornata a tutti, sei a posto? Sono con a posto, sì, l'audio. Sì, mi sono sistemato, ho sistemato anche la cuffia, cara Deborah, buongiorno. I nostri soldi sono importanti, ma pure i nostri timpani, caro Mauro. Hai proprio ragione, buongiorno agli ascoltatori, anche voi sistemate, mi raccomando, esatto, adeguatamente il volume della radio, perché sistemate anche, se volete, i vostri smartphone, i vostri computer, perché bravo, potete telefonarci, scriverci, mandarci delle email, anche dei segnali di fumo, ci stiamo attrezzando. Esatto. I numeri sono quelli abituali: 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e il numero verde 800-24-0024. E perché cosa potete utilizzare oggi questi numeri? Su quali temi ci potete interrogare? Ne abbiamo due, poi chiaramente abbiamo anche la buona notizia del giorno, che come sempre poi rimanderemo ad un approfondimento. Vuoi partire da quella, perché fresca fresca di giornata, è arrivata proprio due istanti fa con il piccione viaggiatore da Bruxelles, da Strasburgo, non mi ricordo bene dove. Dalla Corte UE di Lussemburgo, che ci dice che l'istituto finanziario che concede il mutuo in valuta estera, ecco, ad esempio franchi svizzeri, e ne abbiamo in circolazione, chiaro, diffusi qualche anno fa, deve qua in Italia, dare al mutuatario, a colui che accende questo mutuo, informazioni sufficienti a consentirgli di assumere la decisione con prudenza e piena consapevolezza. Decisione, sentenza della Corte di Lussemburgo, conferma anche quanto sta scritto nelle norme italiane. È stato deciso in un caso che veniva dalla Romania, ma è importante perché ribadisce una volta di più, cara Deborah, che non basta che la banca ti faccia firmare un modulo, ti deve spiegare che se stai sottoscrivendo un mutuo in valuta estera c'è un rischio di cambio che può essere molto molto importante, molto pericoloso, anche come abbiamo avuto modo di testimoniare proprio con i casi delle famiglie italiane che qualche anno fa hanno sottoscritto questi famosi mutui in franchi svizzeri. Siccome non sappiamo bene come sia finita quella vicenda, promettiamo qua solennemente con Mauro, ognuno giura sulla testa dell'altro, che faremo a breve un dove eravamo rimasti su questa storia. Io poi vorrei giurare sulla testa di Peter Bescapè, visto che insomma la chioma ci piace, i capelli se li ha tagliati. I due temi invece di cui parleremo stamattina nei nostri approfondimenti. Oh, molto importanti, perché parliamo del bonus dei diciottenni, il famoso, qualcuno lo chiama bonus Renzi, ma adesso non vorrei fare pasticci. Vabbè, perché quello di 80 euro era il suo, questo è il suo. Possiamo attribuire tutto all'ex presidente del Consiglio. No, che poi dopo ci dicono che stiamo già tirando la volata elettorale, carità. Guarda. Per carità del cielo, io lo dico per farmi capire, sono i 500 euro assegnati a chi compie i 18 anni nell'anno. L'abbiamo erogato l'anno scorso e è notizia proprio che vi abbiamo dato ieri in anteprima, è stato finalmente firmato il decreto anche per i nati nel 99. Se volete, io pur essendo interista lo chiamerei il bonus Donnarumma, così sono tutti d'accordo in qualche modo. Non si candida in nessun collegio elettorale. Non mi risulta, non mi risulta. Allora, soprattutto vi vogliamo sapere anche da voi, l'avete ottenuto l'anno scorso, lo chiederete quest'anno? Guardate che c'è una novità importante, ce la spiegheranno i nostri esperti in linea, che sono il collega del Sole 24 Antonello Cherchi e Daniele Grassucci di scuola.net. È una novità importante che si può spendere anche per corsi di lingua, corsi di teatro, corsi di musica. Esatto, questo è un altro tema che ha scatenato davvero moltissimo i nostri ascoltatori, in particolar modo l'anno scorso, ma in realtà abbiamo ancora qualche residuo di polemica sull'argomento. Parliamo del pagamento del canone RAI in bolletta. Allora, peraltro, tema caldo, perché proprio in questi giorni ripartono i palinsesti televisivi generalisti, comprese le reti RAI, non mancano discussioni e polemiche sui costi e cachet percepiti dalle varie star. Fra i più discussi quest'anno c'è anche quello di Fabio Fazio, che da settimane ripete che il suo Che tempo che fa è pressoché interamente pagato dalla pubblicità. Allora, noi torniamo a riepilogare le modalità di pagamento del canone in bolletta, rispondendo ai vostri dubbi e soprattutto provando a capire perché ancora per qualcuno l'attribuzione del canone in bolletta non c'è e deve barcamenarsi fra tutta una serie di telefonate per vorrebbe pagare, stranamente, insomma. Peraltro, Deborah, c'è anche il chi troppo e chi niente, perché qualcuno invece, qualche famiglia, si ritrova due canoni e la cosa non dovrebbe accadere, e invece accade. E allora lì sono quelle situazioni nelle quali tu non sai a chi rivolgerti per poterle risolvere, per cui anche su questo 800 24 00 24 mettete mano alla cornetta, chiamateci, noi intanto partiamo con il primo argomento di oggi. Annuncio vobis gaudium magnum, abemus papam. We are young, we E invece noi abbiamo il bonus diciottenni edizione 2017, che abbiamo deciso di fare neutro perché dovremmo fare abemus bonum allora. Esatto. Poi non vorrei che i latinisti in ascolto si offendessero. No, io non mi avventuro su questo terreno perché sono ignorantissima. Allora Mauro, proprio tu ieri ci hai dato questa notizia in anteprima mondiale, direi. Adesso insomma non allarghiamoci. No, ieri sei stato proprio bravo, perché da ieri c'era la pubblicazione in Gazzetta del decreto delle presidenze del Consiglio dei Ministri del 4 agosto numero 136, che rende finalmente operativo il bonus da 500 euro per i diciottenni, quelli che però compiono la maggiore età quest'anno, l'hanno fatta la maggiore età e la compiranno entro la fine dell'anno. 500 euro da spendere in un sacco di cose, perché si è ampliata anche l'universo, si è ampliato l'universo spendibile. Questa è la prima novità. Sì, questo è molto importante, perché c'erano stati anche un po' di intoppi nella prima partenza l'anno scorso di questo bonus. Bisogna spenderlo presso esercizi che sono convenzionati, c'è tutto un sistema, diciamo così, di ottenimento di questa somma che non viene erogata materialmente, cioè non si va, per dire, alla posta a ritirare 500 euro. No, esatto. È la possibilità di spendere in certe cose presso certi esercizi. Però tutto questo, secondo me, è meglio che ce lo spieghi chi ne sa di più. Mi fido più se ce lo spiega Antonello Cherchi. Buongiorno Antonello. Buongiorno, spero che la fiducia sia ben riposta. Ma sicuramente lo sarai, perché tu ci devi spiegare. Allora, per avere il bonus devo avere la speed. E già qui... Esatto, questa è la prima questione. Spiegacelo bene, perché non perdiamoci già subito al primo passo. Sì, allora, intanto l'avete detto voi, il bonus di cui stiamo parlando è quello che riguarda i nati nel 99, quindi quelli che hanno compiuto o compiranno 18 anni quest'anno. La procedura è identica a quella riservata a chi è diventato maggiorenne lo scorso anno, cioè per accedere al bonus bisogna dotarsi della SPID. Che cos'è la SPID? La SPID è il sistema pubblico di identità digitale, è una sorta di credenziale forte che permette di accedere a molti servizi della pubblica amministrazione, è una sorta di password forte che si sta pian piano diffondendo e che permette tra l'altro di accedere anche attraverso il sito 18app al bonus cultura. Quindi uno prima si deve fare la speed, si fa presso alcuni enti certificati che possono essere, adesso non vorrei lasciarne fuori qualcuno, possono essere Poste Italiane, Infocert, Team, quindi c'è tutta una procedura da seguire, c'è tutta la lista anche sul sito. Sì, c'è sul sito. Dopodiché, una volta che si hanno queste credenziali, si può, attraverso, ripeto, il sito 18app, accedere con queste credenziali e iniziare la trafila per poter poi arrivare al tesoretto di 500 euro da spendere in varie attività. Ecco, Antonello, ti interrompo perché a rischio di essere pedante, sì. Per ottenere la SPID potete partire dal sito dell'AGID, ad esempio, cioè Agenzia per l'Italia Digitale, e poi da lì vedere tutto l'elenco degli enti che vi danno la SPID, cioè vostra identità digitale per la pubblica amministrazione, per dir così, un po' come se aveste una user di una password dedicata per parlare con la pubblica amministrazione. E poi c'è un portale invece per il bonus dei 500 euro, 18app.italia.it. Attenzione, perché il 18 è 18 app, come 24 di Radio 24. Esattamente, scusate la pedanteria, però alle volte anche con i computer ci si pianta su delle cose molto piccole e molto banali. Certo. Prego Antonello. È corretto, anche perché spendo ancora qualche parola sulla SPID. Attraverso il sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale si può capire quali sono gli enti che rilasciano la SPID, le società che rilasciano la SPID. E poi attenzione, perché è una procedura non complicatissima, comunque abbastanza articolata, ecco, per ottenere le credenziali. Cioè, e questo è il motivo per cui l'anno scorso magari non tutta la platea potenzialmente raggiungibile di questo bonus invece ha trovato qualche resistenza, proprio perché qualcuno non ha avuto molta facilità nella creazione della sua identità digitale, Antonello, giusto? Certo, sì, uno deve prima scegliere presso quale gestore della SPID andare, ripeto, può essere Team, può essere Poste, può essere Infocert, può essere Aruba, ce n'è ancora qualcuno, quindi scegliere in base alle proprie preferenze e poi iniziare questa, registrarsi, ottenere la SPID, che ripeto è un processo un po' articolato perché sono delle password forti che permettono di accedere anche ad altri servizi della pubblica amministrazione, e una volta che si hanno queste credenziali iniziare la trafila per ottenere il bonus di 500 euro. Esatto, che è praticamente la creazione di un plafond da 500 euro personalizzato. Il tema è come si possono poi proprio spendere concretamente. Si va a teatro, al cinema, in un negozio, ma non possiamo, come ci portiamo dietro questo teorico borsellino elettronico? Magari sentiamo se Daniele Grassucci monitora i ragazzi che probabilmente animano anche la comunità di scuola.net. Daniele, benvenuto anche a te, buongiorno. Buongiorno. Ecco, allora, dacci qualche istruzione operativa anche in questo senso. Come diceva prima Mauro, non è un assegno che ci firma qualcuno, è proprio un plafond, quindi materialmente in mano non abbiamo nulla, neanche una carta prepagata. Come li possiamo poi spendere? Beh sì, bisogna entrare nella piattaforma e seguire delle procedure che sono diverse a seconda che si tratti di un esercente online oppure che si tratti di un esercente fisico, perché ecco, nel caso dell'esercente online esiste la possibilità di generare un coupon che poi può essere un codice che poi può essere in qualche modo inserito nello shop online e quindi essere utilizzato, mentre per l'esercente fisico la procedura è un po' più complessa, però alla fine si tratta comunque di un sistema di voucher, cioè quindi in qualche modo si emette un documento, un codice che assegna e a quel codice è assegnato un controvalore che è spendibile per quel bene o quel servizio che rientra all'interno della convenzione. Infatti c'è da dire che lo scorso anno gli online sono stati avvantaggiati comunque in un primo tempo in termini di volumi di acquisto, proprio perché la procedura era un po' più semplice e un po' più in tempo reale sullo stesso canale online su online, e quindi in questo i ragazzi erano più agevolati, più facilitati e li preferivano. Ma questo bonus adesso può essere esteso, abbiamo ricordato, anche a tutta una serie di corsi di musica, di teatro, corsi di lingua anche, che è un altro aspetto sempre molto sentito sia dai ragazzi che dalle famiglie. In questo caso funzionerà evidentemente allo stesso modo, cioè ci saranno degli enti, una lista degli enti, sarà così? Lo chiedo sia all'uno che all'altro dei nostri ospiti. Grassucci, come voi sapete già come potrà funzionare per i corsi? In teoria nel decreto comunque c'è l'idea che bisogna, insomma, sia necessario che ci siano degli enti comunque accreditati per lo svolgimento dei corsi, però ecco, poi bisognerà vedere in termini procedurali che cosa verrà richiesto nel portale per quanto riguarda l'iscrizione degli esercenti, ecco, perché noi sappiamo che un esercente che si deve registrare al portale deve seguire tutta una procedura che poi è legata al tipo di prodotto o servizio, per cui ecco, poi ci sarà comunque un revisore umano che in qualche modo su questo tipologia di servizi andrà a discernere se il servizio offerto è coerente con le direttive, insomma, del decreto oppure no, e quindi accetterà o meno la richiesta di convenzionamento. Allora, volevo anche ricordare, Mauro, era una notizia che c'era in questi giorni sui giornali, è stata riattivata anche la card docente, che è un altro importante borsellino elettronico, vale 500 euro anche in questo caso, che possono usare gli insegnanti, spendere questo denaro per attività e strumenti che riguardano la formazione e l'aggiornamento professionale. E ritornando al bonus per i diciottenni, invece, abbiamo un plafond disponibile e quindi funzionerà come il chi tardi arriva male alloggia, Antonello, oppure diciamo che il governo ha studiato risorse che potrebbero essere teoricamente disponibili per tutti i neodiciottenni di quest'anno, per cui dovrebbero bastare per tutti? Dovrebbero bastare per tutti, tenuto conto anche, però parliamo dello scorso anno, e lo scorso anno era il primo anno di questo bonus cultura, che circa il 40% dei giovani, dei maggiorenni che avevano diritto al bonus, parlo del 2016, quindi nati nel 1998, non si sono fatti sentire. Adesso non so se sia per difficoltà di accedere, di farsi la SPID o per altri motivi, per disattenzione, comunque c'è un 40% di maggiorenni dello scorso anno che non si sono presentati a riscuotere questi 500 euro virtuali. Quindi la platea è circa, lo scorso anno era 570.000 potenziali candidati a ottenere il bonus, quest'anno siamo più o meno nello stesso diciamo range, e dovrebbero essere le risorse dovrebbero essere disponibili per tutti. Quindi la legge di bilancio 2015, che l'aveva previsto per il 2016, aveva stanziato 290 milioni di euro per il bonus cultura. E non sono stati spesi interamente, esatto. Per cui c'è da immaginare che, se non dirottati ad altre poste del bilancio dello Stato, siano ancora utilizzabili. Ecco, ma fino... Scusa Mauro, ti do una notizia in diretta, perché sì, mentre parlavo con voi da ieri stavo cercando di sto monitorando il sito che ripeto per completezza di informazione www.18app.italia.it. fino a qualche secondo fa non era aggiornato, adesso l'hanno aggiornato e quindi anche i nati del 99 possono accedere, perché fino a pochi secondi fa c'era la frase dovrete attendere la pubblicazione del decreto, adesso invece il sito è stato aggiornato e quindi presumo che tutta la lo ha saputo prima il sole che loro stessi che il decreto era stato pubblicato. Tra l'altro c'è Irene che ci scrive su WhatsApp, quindi il bonus vale anche per chi compie 18 anni il 31/12/99, cioè nato nel 31/12/99, certo, se compie 18 anni quest'anno ci mancherebbe altro, Irene, che e gli varrà, cioè potrà spenderlo, però chiedo conferma ad Antonello, fino al 31 dicembre del 2018, quindi ha tutto l'anno davanti per tutti questi mesi, adesso che poi il sito è stato aggiornato si può partire, e tutto l'anno davanti, l'anno prossimo, per utilizzare questo bonus. Però il tema è capire se l'identità digitale se la deve fare subito, entro la fine di quest'anno, oppure ha comunque tempo, la data di nascita diciamo fa fede, ha tutto il tempo anche l'anno prossimo per costituire la sua identità digitale, Antonello. Ma io ritengo che siccome c'è tempo per registrarsi fino al sito, fino al 30 giugno 2018, uno l'identità digitale se la possa fare anche nel 2018, tanto fa fede dalla data di nascita, no? Il fatto di aver compiuto 18 anni in questo caso nel 2017. Ecco, io posso dire una cosa un po' sgraziata, siccome quando si tratta di andare a fare dei versamenti magari uno aspetta perché spesso c'è la proroga, visto che in questo caso invece è una disponibilità monetaria che ci viene data, che viene data ad alcuni di noi, subito, magari facciamo prima, non aspettiamo proprio così tanto tempo. Esatto, mia figlia anno 1998 ha utilizzato il bonus molto bene dicendo... paga Renzi, così andava in giro a fare gli acquisti a cui aveva carità, diritto. No, che poi ci accusano di prendere una parte o l'altra, chiamiamolo bonus Donnarumma se volete. Ottimo. Oppure come dice più finemente Antonello Cherchi, il bonus cultura, che certo fa tutto un altro effetto. Esatto. Daniele Grassucci invece, allora stamattina noi abbiamo dei colleghi che hanno dei figli diciottenni qui in redazione e proprio uno di loro mi chiedeva, puoi chiedere ai tuoi ospiti se... per i ragazzi che magari faranno un percorso di studio prossimamente all'estero, se possono fare anche delle spese all'estero utilizzando il bonus italiano. Come accennavo, per poter spendere questo bonus bisogna che l'esercente sia in qualche modo registrato e convenzionato con la piattaforma, quindi se sinceramente non ho studiato questo tipo di tema perché è un caso molto particolare, però immagino che comunque la procedura sia sempre quella, ci deve essere un convenzionamento dell'esercente con la piattaforma, e quindi la vedo un po' complessa come situazione. Però ecco, sicuramente è una questione interessante da approfondire. Poi se mi permettete sul tema Renzi, sono i ragazzi stessi che lo chiamano in questo modo, tant'è che io ho seguito molto attentamente un gruppo che si è costituito di discussione su questo tema, ogni volta che si riusciva ad acquistare un oggetto veniva appunto ringraziato storpiandone il nome l'ex premier. Anche quello da 80 euro in busta paga lo chiamano nello stesso modo. No, vorrei uscire da questo, da questo pantano scivoloso. E invece, c'era un'altra cosa che volevo dire. È importante, lo ricordava adesso Grassucci, che poi gli esercenti, le catene, ma anche in questo caso lo ribadiamo, i fornitori di corsi di lingua, i formatori che fanno corsi di musica, ad esempio, si accreditino in questo sistema, di modo che i diciottenni, i ragazzi del 99, se volete chiamarli così, possano usufruire di questo servizio spendendo questo voucher. Infatti, perché l'altra lamentela dell'anno scorso era che per esempio nei piccoli centri, nelle poche cartolerie che magari servono appunto le famiglie di determinate zone, effettivamente l'accreditamento non avveniva e quindi sono risorse che andavano perse. Dopo uno dice perché vola l'e-commerce e il commercio online, anche per queste motivazioni qua. Quindi non abbiate poi paura della tracciabilità, che è un altro tema, perché qua non vorrei che si sollevasse anche questo punto. appunto, Mauro. Beh, ma tanto i diciottenni sappiamo che vivono connessi. Guarda, infatti proprio su Facebook hanno ascoltato: in alcune città e in alcune situazioni il bonus non è così facilmente spendibile, ci sono atteggiamenti e procedure diverse messe in atto dagli esercenti. E vabbè, niente, prendiamo la macchina e andiamo da un'altra parte, magari in un centro commerciale più grande dove forse le difficoltà sono inferiori. Va bene, c'è un'ultima domanda che giro da Antonello Cherchi al volo. Antonello, anche sì, per cittadini non italiani, diciottenni non italiani? Sì, esatto, il decreto dello scorso anno, che poi è stato confermato quest'anno con l'aggiunta delle novità di cui dicevamo, dice che questa carta elettronica, questo bonus di 500 euro, è concesso ai residenti nel territorio italiano e a chi ha il permesso di soggiorno in corso di validità, quindi anche i non italiani che abbiano il permesso di soggiorno. Perfetto. Tanto saranno stati censiti anche loro, sempre come platea. Beh, sicuramente, se hanno un permesso di soggiorno, sono regolarmente presenti nel nostro paese. Cara Deborah, sì, penso di aver detto, penso che abbiamo detto tutto su questa. Ci saranno sicuramente altre domande, ce le potete inviare anche nella seconda parte della trasmissione. Ma anche secondo se te l'esperto tema. risponde anche su questi temi? Guarda, abbiamo avuto parecchie domande e ogni lunedì pubblichiamo, come sai, molte risposte anche su questo tipo di bonus, il bonus cultura. Benissimo. Adesso ottimo. Invece vorrei salutare i nostri esperti. Allora saluto Daniele Grassucci, saluto Antonello Cherchi, grazie dell'aiuto di questa mattina. E invece, cara Deborah, è il tuo momento, perché è il mio momento, tocca, guarda, sono in fibrillazione. Tocca a te, sei pronta? Pronta. Le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. Viva la RAI, mi fa crescere il serani. Viva la RAI, viva la RAI, quanti geni lavorano solo per noi. Allora, proprio in questi giorni ripartono i palinsesti estivi generalisti, si ritorna a parlare di canone. Oltretutto quest'estate, proprio su un ipotetico rimborso del canone TV, ha giocato anche una truffa circolata via mail. Si trattava di phishing, ma pare, Mauro, che l'Agenzia delle Entrate ha ricevuto a fine agosto molte segnalazioni relative a delle mail spedite a cittadini a cui veniva chiesto di attivare delle procedure di rimborso, di regolarizzare la propria posizione fiscale. Niente di tutto ciò era vero, ovviamente, però. Sì, perché il phishing, come dire, cioè l'inviare email malevole che hanno solo lo scopo di o di intromettersi nel nostro computer o nei nostri telefonini, oppure di carpirci dei dati come quello dell'accesso alla banca, alla nostra banca, si è molto evoluto ed è anche molto attento all'attualità. Sono un po' dei cronisti anche loro, questi che fanno il phishing, e quindi ci mandano magari la cosa sulla canone Rai proprio nel momento in cui ne stiamo parlando. Esatto. E nei periodi in cui se ne parla, e così cercano di abbindolarci. Prudenza, e soprattutto ascoltate sempre Pagliarini a Radio 24, ad brava, esempio, 2024, che ne parla vi spesso. Dà sempre un sacco di consigli utili sulla sicurezza. Adesso sul canone Rai noi ritorniamo, magari un paio di precisazioni sul tema precedente vale la pena farle, precisazioni, insomma una piccola codina rispetto al bonus cultura per i diciottenni. Cristina ci chiedeva su WhatsApp se sarà riconosciuto anche per i ragazzi nati nel 2000, e lo sapremo più avanti. L'idea è che questo bonus diventi strutturale, cioè ogni anno arriva al 18° anno, lo Stato assegna questi 500 euro per la formazione del diciottenne. Però ogni volta, come abbiamo visto, serve il decreto e soprattutto servono le risorse, quindi bisogna vedere quali risorse saranno disponibili negli anni a venire. Quindi Cristina, non lo sappiamo ancora, continui a seguirci e magari ci daranno, Antonello Cherchi ci darà delle informazioni di prima mano. Esatto. Andrea anche invece ci chiede su SMS, vale anche per la scuola guida? Esatto. Purtroppo no, le scuole guida non sono comprese, però è un'idea che giriamo volentieri esatto, anche al governo, al legislatore, volessero estenderlo, perché no? Allora, il canone Rai, caro Mauro, il 2016, Mauro, l'anno scorso ha introdotto, come tutti sappiamo, questa grande novità, per qualcuno molto indigesta, la novità del pagamento del canone Rai in bolletta. 10 euro al mese fino al raggiungimento della quota annuale di 90 euro. No, in realtà adesso sono diventate 9 euro al mese per 10 mesi, sì. Quindi ad ottobre dovremo pagare l'ultima. Questo perché quest'anno siamo ormai a regime. L'anno scorso il tutto è stato un po' più complicato, ma ancora qualche residuo problematico ce l'abbiamo. Probabilmente lo segnalano anche voi al giornale. Sì, Per cui bisogna dare una, come dire, una notizia positiva e una negativa. Quella positiva è il fatto che avendo ampliato la platea di chi pagava, ha funzionato il pagare meno, pagare tutti. Che è brutto dirlo, però è così. È un principio sacrosanto, esatto. Era un tipo di prelievo che veniva, diciamo così, facilmente disatteso. E invece con questo sistema, tant'è vero, l'introito è stato addirittura superiore a quello che era stato preventivato, e questo ha consentito di ridurre il prelievo per tutti quest'anno. Hai visto mai che pagheremo anche? Questa è la buona notizia. Quella cattiva è che però restano delle situazioni complicate e non si riesce a farsi capire. Allora noi, per cercare di panare qualche matassa, di panare qualcuna di queste matasse, abbiamo chiamato Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori. Buongiorno Antonelli. Buongiorno a voi. Allora, che succede? Quanti sono adesso le lamentele? Perché ancora ci sono state, sappiamo che ci sono state nei mesi scorsi un po' di rimostranze da parte di gente che si è trovata caricata del canone e non avrebbe dovuto pagarlo, oppure doppio canone, esatto, in una famiglia che doveva pagarne uno e così quelli via. Che devono inseguire o l'Agenzia delle Entrate o la RAI, i sportelli territoriali, o rivolgersi addirittura al centro di Torino per dire: guardate che io lo voglio pagare in bolletta, è inutile che mi inseguate e mi obbligate a fare l'F24 ad un certo punto dell'anno perché sono in arretrato con il pagamento. Antonelli. Allora, intanto è vero che ha aumentato il gettito del canone RAI, questo però vuol dire che dovrebbero ridurci l'importo del canone RAI, nel senso che i 90 euro, perché è la novità del 2017 che siamo passati, sì, da 190, è ancora troppo. Adesso l'Orlandia aveva dato dei dati, poi ne ha dati altri, eccetera, eccetera. Diciamo, se ha parlato di 500 milioni di gettito aggiuntivo, beh, allora in quel caso deve ovviamente scendere di molto, insomma. Poi ha dato nel maggio del 2017 un altro dato, ha parlato di 5,5 milioni di abbonati in più, in questo caso dovrebbe scendere a 85 euro rispetto a 90. Quindi, siccome si era detto non vogliamo fare cassa, ma vogliamo ridurre le porte, in effetti l'hanno ridotto, e allora devono ridurlo, diciamo, di pari ammontare, in modo tale che non ci guadagni nessuno. E questa è una prima cosa. La seconda, e noi purtroppo questa cosa continuiamo a denunciarla perché ci dispiace veramente, era previsto che nel caso di maggiori entrate si alzasse la soglia di esenzione per chi aveva più di 75 euro e un reddito familiare. Anni. E purtroppo non l'hanno ancora alzato, cioè nonostante sia ormai dimostrato che il gettito è aumentato, questa soglia, che doveva essere alzata a 8.000 euro, è rimasta ferma a 6.713,98, mi raccomando, 98 centesimi. No, perché in effetti, Antonelli, questa faccenda intanto dei 75 anni mi sembra di interesse per gli ascoltatori. Adesso non so se riusciamo a far intervenire un'ascoltatrice. C'è Milena, la stiamo chiamando. Allora guardi, non le dico ancora niente, ma le darò proprio il privilegio, l'onore di farle direttamente la domanda. Poi allora ritorniamo sul tema di chi ha già raggiunto questa soglia anagrafica. Quindi le problematiche sono intanto... Ce l'abbiamo, Milena. Dunque, io ho un fratello che ha compiuto i 75 anni il 13 di settembre. So che a 75 anni non si paga più il canone. Vorrei sapere, siccome gli è arrivato da pagare, se lo deve pagare o meno. Grazie Milena. Quindi da quello che abbiamo capito, Antonelli, comunque intanto dipende dal reddito. Allora, intanto bisogna fare la dichiarazione, perché se uno non fa la dichiarazione continua a pagare. Può anche poi presentare rimborso nel caso non l'abbia fatta, però il punto è che bisogna avere più di 75 anni un reddito complessivo familiare non superiore a 6.713. Era previsto per 2016, 2017, 2018 questo innalzamento a 8.000 euro, era previsto nella legge di stabilità 2016, era scritto però che andava finanziato con le eventuali maggiori entrate, quindi manca il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico. Stanno prendendo tempo, perché ormai il gettito 2016 è accertato, certo. E quindi noi continuiamo a sollecitarli, perché sono comunque condizioni familiari evidentemente di disagio, non si capisce perché questa tassa, che peraltro diciamo così, non rispetta l'articolo 53 della Costituzione, perché viene pagata da tutti ricchi e poveri, e evidentemente va applicato, al di là del fatto che poi uno potrebbe eccepire che non si capisce perché debba valere solo per chi ha più di 75 anni, perché se io sono un padre che deve mantenere due figli e una moglie e ho un reddito familiare inferiore a 6.713 euro, forse dovrei essere esentato anch'io, voglio dire, non si capisce perché questa cosa dei 75 anni, ma almeno per loro venga applicato, insomma, ecco, quindi questa è una prima cosa. Antonelli, aspetti un attimo, perché il decreto noi ci dobbiamo fermare per informazioni sulla viabilità, e quindi mi viene da dire che il decreto attuativo probabilmente ha trovato traffico. Due di denari. Fammi vincere un milione! Televisione, televisione! Chi è che c'ha il più bel faccione? Tu cos'hai guardato ieri sera, oppure hai fatto le prove con i Chapter 11? No, non ho fatto le prove con i Chapter 11, ma ho guardato una cosa che vorrei invece non ricordarti che ho guardato, perché ieri sera si giocava l'anticipo del campionato di calcio di Serie A. Ho sentito che ne parlavano i miei vicini di casa, di tutti i convocati quasi. Ecco, siccome siamo divisi dalla fede calcistica, meglio se non mettiamo argomenti. Non mettiamo questo dito nelle piaghe reciproche. Invece io ridarei la parola a Mauro Antonelli, ma premettendo una cosa, questa mattina sui giornali appariva un giornale che è Repubblica, lo possiamo anche dire, mica tutto lo scriviamo sul Sole 24 Ore, molto sì, ma non tutto, appariva questa indagine del GfK che dice oramai le vendite di apparecchi tradizionali stanno crollando decisamente, meno 10% nel 2017. Però precisa anche il giornale, apparecchi TV. È la crisi del televisore, ma non della televisione, perché adesso insomma noi privilegiamo il sistema on demand, andiamo a caccia di quello che ci piace, e quindi chiaramente a seconda del dispositivo che abbiamo dietro possiamo comunque guardare il nostro programma preferito. Allora, ci sono sempre meno televisori, ad esempio un'ascoltatrice ci chiede: ma io la TV non ce l'ho, dal 2000 non ho la TV, si è mossa in anticipo diciamo sulla tendenza, già, non usava già ho naturalmente inviato plichi e plichi raccomandati per farmi rimborsare i 100 euro dell'anno scorso, ci sono riuscita. E la domanda poi è: ma anche quest'anno devo rifare la comunicazione e dire che non esatto, ho la TV? Ottima domanda. Allora, che succede, Antonelli? Questa purtroppo è una delle cose che grida vendetta al cielo, perché la cosa assurda è che chi non ha la TV, e non sono pochi, perché secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate sono quasi 500.000 che hanno fatto la dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo, devono ricordarsi ogni anno di rifare la dichiarazione entro il 31 gennaio, altrimenti arriva il canone. Quindi vuol dire che uno ha 60 anni, 70 anni, persino quando arriva nella casa di riposo, deve compilare la dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio TV. Questa è una cosa che è prevista in questa legge di stabilità, noi abbiamo detto modificatela, cioè io capisco che c'è l'inversione dell'onere della prova e uno deve dimostrare un'altra prassi italiana veramente un po' discutibile. Ma ve l'ho dimostrato una volta, basta, cioè al limite venite in casa, guardatemi la casa. Lo so, però se a propria insaputa, se a sua insaputa ad una persona gli è stato regalato un televisore, d'altronde bisogna... A quel punto deve fare la dichiarazione di modifica di presupposti, cioè c'è il famoso quadro nel modellino in cui uno dice: guardate che da questo momento mi è arrivata la TV, perché poi tanto alla fine se uno è un evasore, voglio dire, dichiara comunque di non averlo, punto e basta. Anzi, l'evasore è quello bravo, diciamo così, no? che il primo gennaio di ogni anno subito fa la dichiarazione che non esatto, ce l'ha, esatto, quello non ha problemi, va dallo specialista che gli dice: non ti preoccupare, faccio tutto io. Quindi alla fine chi paga? La persona innocente che davvero non ce l'ha, certo. Chi si deve dire, Antonelli, che non si ha la disponibilità dell'apparecchio televisivo per altro, all'Agenzia delle Entrate, esattamente. Dopodiché, rispetto a quello che dicevate prima, no? Le nuove TV e così via, allora lì c'era stata una nota che finalmente aveva chiarito un po' di più, perché poi in realtà, andando nei dettagli, non è così, insomma, che non costituiscono apparecchi televisivi, computer, gli smartphone, i tablet, eccetera, eccetera, se privi attenzione del sintonizzatore. Quindi vuol dire, se io ho un computer normale, diciamo così, non devo pagare il canone, quindi posso dichiarare di non avere la TV. Siccome però adesso ci sono delle chiavette USB con il sintonizzatore, se io non ho la TV ma ho un computer con la chiavetta che mi consente di vedere, di ricevere il segnale digitale terrestre o anche solo satellitare, allora attenzione che il canone va pagato. Stessa cosa, se io ho un TV nuovo che non uso o lo uso solo per vedere le videocassette, devo comunque pagare il canone. Mm-hmm. Diverso è il discorso dei vecchi TV analogici, quelli di una volta, col tubo catodico. Allora, in quel caso, se ho il decoder, devo pagare il canone. Se non ho il decoder, non lo devo pagare. Oh, questo è importante, perché avevamo in linea Gabriella da Udine. Gabriella, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Quella sua domanda proprio era proprio questa, giusto? Esatto, esatto, esatto. Ce la vuoi ripetere? Io ho il televisore preistorico, privo di decoder. Quindi mesozoico o un'altra era? ancora di più. Di Fred Flintstone, la TV di Fred Flintstone. Lo uso solo per vedere dei film, e ho una buona videoteca, e la televisione quando mai, insomma, non la vedo. Sì. Quindi lei non ha la ricezione del digitale terrestre. Esatto, ho il computer però, chiaramente, e io pago il canone. Sentiamo cosa dice. Che sia una cosa molto ingiusta. Grazie. No, non lo deve pagare, non lo deve pagare. Addio, adesso purtroppo dovrà pagarlo per il 2017, perché altra cosa, questa dichiarazione vale solo entro il 30 gennaio, quindi se uno la fa adesso, cosa che consigli di fare alla signora. In questo caso mai che valga la retroattività, ovviamente. No, ma in quel caso c'è una giustificazione, cioè l'Agenzia delle Entrate dice: ok, diverso per le dichiarazioni di doppia utenza, dopo lì diamo una buona notizia. Sì. Allora io ho pagato due volte, l'Agenzia delle Entrate verifica che effettivamente ha pagato due volte, quindi puoi chiedere il rimborso. E la novità, a questo punto la dico subito, è che mentre la dichiarazione, tu oggi non puoi fare la dichiarazione di doppia utenza per il 2016, però puoi ancora presentare la domanda di rimborso, qui ci sono state date informazioni sbagliate, cioè io oggi, abbiamo fatto un quesito noi all'Agenzia delle Entrate, se io oggi ho pagato nel 2016 due volte il canone, posso ancora in questo momento presentare la richiesta di rimborso e dire: ridatemi quel doppio canone che ho pagato lo scorso anno. Questo si può ancora fare. Per quanto riguarda invece il problema che avevamo detto, quello diventa più complicato, perché l'Agenzia delle Entrate ti dice: se tu me lo dichiari adesso, io non posso mandarti un controllo e verificare certo. se a gennaio ce la vedo oppure no, e quindi mi devi pagare. Quindi entro il 31 gennaio paghi in salti tutto il canone. Se invece lo dichiaro dal 1 gennaio al 1 luglio, allora in quel caso pago solamente il primo semestre. Se lo dichiaro dopo il 1 luglio, a quel punto purtroppo devo pagare l'intero canone 2017 e la dichiarazione viene conteggiata per il 2018. Esatto, ma perché Rosangela da Bergamo ha un altro caso che a volte capita purtroppo. Rosangela, buongiorno, ci ponga la domanda. Buongiorno. Dunque, noi, allora, mio padre ha sempre pagato l'abbonamento della TV, e purtroppo deceduto quest'anno all'età di 93 anni. Prima sentivo che parlavano di 75 anni, però insomma ho acceso la radio tardi e quindi sì, non sì, ma c'è un limite di reddito, quindi Rosangela non sappiamo. Capito. Dunque, adesso noi figlie non sappiamo in realtà come comportarci, perché chiaramente ognuno ha la sua casa e ognuno già paga l'abbonamento. Certo. Però la pratica di successione diciamo è iniziata, ma siamo ben lungi dal dire che l'abbiamo completato. Abbiamo iniziato i primi passi, mettiamolo così. Ecco. Vabbè, diciamo che almeno risponde. Per il televisore dovrebbe essere facile, insomma, risolvere la faccenda. Penso di sì. Cosa dice Antonelli? Mica tanto. Non ci siamo. Allora, dunque, qui ci troviamo di fronte al problema di prima. Allora, uno, anche dopo che è morto e ha dichiarato magari anche sempre per tutta la vita di non pagare addirittura la TV perché non ce l'ha, cosa succede se dopo che è morto ovviamente ha qualche problemino a fare la dichiarazione? A quel punto, siccome ha l'utenza elettrica attiva, se è domestico o residenziale, in automatico arriva il canone. A quel punto gli eredi, e qui però il perché problema ci sarà l'erede che subdolamente guarda la stessa televisione, lo stesso televisore, anzi, quindi l'erede può dichiarare e compilare il famoso quadro B, cioè la dichiarazione sostitutiva di presenza di alta utenza elettrica per l'addebito, e quindi dire: guardate che lo sto già pagando io, quindi metto i dati di mio padre deceduto, e quindi siccome la pago io, altro componente della famiglia, non dovete addebitarmi il canone là. E anche quella la può fare, se non l'ha fatta, può comunque, se è scattato in qualche modo l'addebito, può comunque, siccome si tratta sempre del caso di doppio pagamento, può ancora presentare la domanda di rimborso. Naturalmente qui esiste questa difficoltà, perché fino a che resta attiva l'utenza elettrica della casa, dove ovviamente gli eredi la lasciano attiva perché magari vogliono andare a vedere comunque la casa, accendere la luce, non sanno se la vogliono vendere, se la vogliono conservare, ecco, però il problema è questo: una ha come alternativa mandare la disdetta dell'utenza elettrica, togli a quel punto l'abbonamento, certo, con l'impresa elettrica, e a quel punto non ti arriva più. Ma fino a che è attiva bisogna sempre fare questa dichiarazione sostitutiva, esatto, della potenza. Allora, noi ci eravamo detti, ma rifacciamo la puntata sul canone Rai, non c'è più niente da dire. Guarda, se fossimo andati avanti un'altra ora ne trovavamo qualche altro caso strano. Grazie a Mauro Antonelli, grazie a Mauro Meazza. Grazie a Deborah Rosciani. Ottimo, noi torniamo domani, a tutti buona giornata.